Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Il lutto gravava ancora nell'aria. Era il giorno dell'apertura del testamento, 2 settimane dopo la morte del console, alle 5:30 del pomeriggio. La vedova Buddenbrock aveva invitato suo fratello affinché partecipasse con Thomas e col signor Marcus, il procuratore, a una discussione sulle disposizioni del defunto e sulla situazione patrimoniale. E Tony aveva comunicato la sua decisione di prender parte anche lei alle conversazioni. Questo interessamento, così aveva detto, lo doveva tanto alla ditta quanto alla famiglia. E perciò si sforzò di conferire alla riunione un carattere di seduta, di consiglio di famiglia. Aveva chiuso le tende delle finestre e, nonostante le 2 lampade a paraffina che ardevano sulla tavola allungata e coperta d'un tappeto verde, aveva acceso per sovrabbondanza tutte le candele dei grandi candelabri dorati. Aveva anche distribuito sulla tavola una gran quantità di fogli e di matite temperate, le quali nessuno sapeva veramente a che cosa dovessero servire. L'abito nero le donava una snellezza da fanciulla, e quantunque fosse quella che forse più di tutti sentiva il dolore per la perdita del console al quale era stata così vicina negli ultimi tempi, quantunque il giorno stesso pensando a lui fosse scoppiata già 2 volte a piangere amaramente, l'attesa del piccolo consiglio di famiglia, della piccola seria conversazione alla quale intendeva partecipare con tutta la sua dignità, poté arrossare le sue belle guance, animare il suo sguardo, dare ai gesti un tono festoso e solenne. Sua madre, invece, disfatta dallo spavento, dal dolore, dalle 1000 formalità del lutto e del funerale, aveva un aspetto sofferente. Il suo viso, incorniciato dai pizzi neri della cuffia, ne risaltava ancor più pallido e gli occhi celesti erano scialbi. Ma nei capelli rossi e lisci non si scopriva ancora nessun filo bianco. Era ancora l'effetto della tintura di Parigi o era già la parrucca? Questo lo sapeva soltanto Madamigella Jungmann, la quale non lo avrebbe rivelato nemmeno alle donne della famiglia. Seduti alla tavola da pranzo, aspettavano che Thomas e il signor Marcus salissero dagli uffici. Le divinità dipinte spiccavano bianche e superbe sui loro zoccoli contro lo sfondo celeste. La signora Buddenbrock disse: «Il fatto è questo, mio caro Justus. Ti ho pregato di venire. Ecco, per farla breve, si tratta di Clara. Il mio povero Jan ha lasciato a me la scelta del tutore che la ragazza deve avere ancora per 3 anni. So che a te non piace caricarti di incombenze, hai i tuoi doveri. Insomma, si può dire che questo incarico affettuoso non implica seccature di sorta. Perciò vorrei pregarti di assumere la tutela». «Volentieri, Betsy, lo faccio molto volentieri. Potrei vedere la pupilla? È un po' troppo seria quella cara figliuola». Clara, mandata a chiamare, avanzò lentamente, pallida e vestita di nero, muovendosi con doloroso ritegno. Dopo la morte del babbo aveva passato quasi tutto il tempo pregando in camera sua. Aveva gli occhi scuri, immobili. Sembrava irrigidita nel dolore e nel timor di Dio. Lo zio Justus, galante com'era, le andò incontro e quasi si inchinò mentre le stringeva la mano. Poi le rivolse alcune parole buone ed ella uscì dopo aver ricevuto dalla madre un bacio sulle labbra immobili. «Di un po', ho sentito che Christian ritorna». «Sì, Justus, ritornerà e Dio lo protegga sull'oceano. È un viaggio interminabile. Per quanto gli abbia scritto il giorno dopo la morte di Jan, a quest'ora non ha ancora ricevuto la lettera. E poi il veliero impiegherà circa 2 mesi. Ma è necessario che venga. Io ne ho tanto bisogno, Justus. Tom dice che Jan non gli avrebbe mai permesso di lasciare il suo posto a Valparaiso. Ma dimmi tu, sono quasi 8 anni che non lo vedo. E in queste circostanze li voglio tutti intorno a me in questi momenti gravi. Per una mamma è naturale». «Oh, certo, certo», confermò il console Kröger, vedendo che le spuntavano le lacrime. «Adesso Anche Tom è d'accordo, soggiunse lei. Poiché Christian, dove starebbe meglio che nell'azienda del suo povero babbo, nell'azienda di Tom? Thomas Buddenbrook, così giovane e già principale della grande casa commerciale, dimostrava nel viso e nel portamento un pronunciato senso di dignità. Ma era pallido e specialmente le sue mani, a un dito gli brillava ormai il grande anello di famiglia con la pietra verde, erano bianche come i polsini che gli sbucavano dalle maniche nere, di un pallore gelido che rivelava quanto fossero fredde e asciutte. Quelle mani, le cui unghie ovali ben curate tendevano verso una tinta azzurrina, sapevano assumere in certi momenti, in certe posizioni di convulsa incoscienza, un'espressione indescrivibile di sensibilità ostile e di ritegno quasi morboso, un'espressione che fino allora era stata estranea e mal si adattava alle mani piuttosto larghe e borghesi, anche se ben modellate, dei Buddenbrook. Il primo pensiero di Tom fu di aprire la porta della stanza dei paesaggi per far entrare nella sala il calore della stufa che vi ardeva dietro la grata di ferro battuto. Poi strinse la mano al console Kröger e sedette alla tavola di rimpetto al signor Marcus, guardando con un certo stupore e con un sopracciglio alzato la sorella Toni. Ma lei buttò indietro la testa e premette il mento sul petto, in maniera che Tom represse ogni osservazione sulla presenza di sua sorella. «Sicché non possiamo dire ancora, signor console», disse Justus Kröger. «I Paesi Bassi, caro vecchio Tom, sperano dunque invano che tu li rappresenti». «Sì, zio Justus, ho creduto meglio. Vedi, avrei potuto assumere subito il consolato con tanti altri obblighi, ma prima di tutto sono ancora giovane». E poi ho parlato con lo zio Gottold, il quale è stato ben lieto di accettare. Hai fatto bene, caro figliuolo. Ottima politica. Veramente gentlemanlike. Signor Marcus, disse la signora Betsy. Oh mio caro signor Marcus. E gli porse la mano rivolgendogli la palma che egli strinse, guardandosi in giro con la solita soggezione. L'ho pregata di salire. Lei sa già di che cosa si tratta e io so che è d'accordo con noi. Il mio povero marito, nelle sue ultime volontà, ha espresso il desiderio che dopo la sua morte lei metta a servizio della ditta la sua devota e fedele capacità, non più come collaboratore estraneo, ma come socio. «Sì, sì, signora», rispose Marcus. «La prego di essere persuasa che so apprezzare con gratitudine l'onore che mi viene da questa offerta, perché i mezzi che potrò impiegare nella ditta sono troppo modesti. Davanti a Dio e agli uomini non saprei fare di meglio che accettare con animo grato l'offerta sua e del suo signor figlio». «Compagno ruba guadagno, ma voi due certamente saprete smentire il motto», disse il console Kröger. «E ora, ragazzi, vediamo un po' la situazione. Betsy, Hai una copia del testamento? E tu, Tom, un conteggio per sommi capi? Ce l'ho in testa, disse Thomas, e facendo oscillare la matita d'oro sulla tavola, guardando verso la stanza dei paesaggi, incominciò a spiegare la situazione. Il patrimonio ammontava, a parte la proprietà fondiaria, a 750.000 marchi in cifra tonda. Persino Thomas, che pure era iniziato all'andamento degli affari, era stato lasciato all'oscuro da suo padre su questa cifra. «Da gran tempo dovremmo aver raggiunto il milione», disse con voce soffocata dall'agitazione, mentre gli tremavano le mani. «Il nonno ai suoi tempi migliori aveva già 900.000 marchi a sua disposizione. E quanti sforzi dopo di allora, quanti successi, quanti bei colpi di fortuna! E poi la dote della mamma, l'eredità della mamma, ma purtroppo la continua dispersione. Insomma, Marcus, avremo abbastanza da fare». Il desiderio di agire, di vincere, di essere potente, la smania di afferrare la fortuna per i capelli illuminò i suoi occhi di un baleno rapido e violento. Egli si sentiva addosso gli occhi di tutto il mondo, che era in attesa per constatare se avrebbe saputo aumentare il prestigio della ditta e della vecchia famiglia, o almeno conservarlo. Alla borsa incontrava spesso le occhiate indagatrici di vecchi uomini d'affari gioviali, scettici e un po' ironici, che sembravano chiedere: «Sarai poi capace di spuntarla, figlio mio?» Ed egli pensava: «La spunterò». Thank you. Ai primi di febbraio del 1856, dopo 8 anni di assenza, Christian Buddenbrook ritornò nella sua città natale. Arrivò con la diligenza di Amburgo, vestito di un abito giallo a quadretti che gli dava un'aria spiccatamente tropicale. Portò con sé uno spunzone di pesce spada e una lunga canna da zucchero e accolse, tra impacciato e distratto, gli abbracci di sua madre. Mantenne lo stesso atteggiamento anche quando, la mattina dopo il suo arrivo, la famiglia si recò al cimitero passando dalla Porta della Rocca per deporre una ghirlanda sulla tomba del console. Nessuno l'aveva visto ancora versare una lacrima per la morte del babbo. La lunga assenza non era una spiegazione sufficiente. Strano però era che, in contrasto con la sua avversione contro tali discorsi, prendesse sovente la sorella Toni in disparte, a quattr'occhi, per farsi raccontare con evidenza in tutti i particolari gli avvenimenti di quel tremendo pomeriggio. Madame Grünlich, infatti, era quella che sapeva raccontare con maggior vivacità. Non si poteva dire che Christian si fosse fatto più bello. Era scarno e pallido, aveva la pelle tirata sul cranio, e di tra gli zigomi emergeva il grosso naso gobbo, tagliente e ossuto. Anche i capelli erano alquanto diradati. Aveva il collo sottile e troppo lungo, e le sue gambe magre erano curvate all'infuori. Del resto, il soggiorno londinese aveva lasciato in lui le tracce più profonde, e siccome anche a Valparaiso aveva avuto rapporti specie con inglesi, tutta la sua figura aveva preso un che di inglese che non gli stava male. «Senti un po'», domandò di punto in bianco, «hai mai avuto la sensazione, non saprei come dire, di quando si ingoia un boccone duro e poi ti fa male tutta la schiena?» E così dicendo arricciava il naso. «Sì», rispose Toni, «è una cosa comune, si prende un sorso d'acqua». «Ah sì?» replicò lui insoddisfatto. «Non credo però che ci siamo intesi». E il suo viso appariva serio e inquieto. A un tratto esclamò: «Strano, qualche volta non riesco ad inghiottire. Oh, non c'è niente da ridere, è una cosa terribilmente seria. Penso di non essere capace di inghiottire e allora non ci riesco davvero. Ho già il boccone in gola, ma il collo, i muscoli si rifiutano. Non obbediscono alla volontà, capite? Il fatto è questo, che non ardisco nemmeno di volerlo sul serio». Toni gridò esterrefatta: «Ma via, Christian, non dire sciocchezze. Non hai il coraggio di voler inghiottire. Oh, fai ridere. Ma che storie ci vieni a raccontare?» «Qualche volta Christian mi sembra un po' strano», disse una sera Madame Grünlich a suo fratello Thomas mentre erano soli. «Non capisco quel suo modo di parlare. Scende ai particolari in una maniera così strana. Non saprei come dire, vede le cose da un punto di vista così insolito, non è vero?» «Capisco», osservò Tom. «Capisco benissimo quello che vuoi dire, Toni. Christian è senza tatto. Non so se mi esprimo bene. Gli manca qualcosa che si potrebbe chiamare l'equilibrio, l'equilibrio personale. Non è forse come quando si parla nel delirio della febbre? Chi maneggia è proprio così, privo di controllo e di riguardi. Vedi, il fatto è che Christian si occupa troppo di se stesso, di ciò che avviene nel suo intimo. Anch'io ho riflettuto su questa angosciosa, vanitosa, curiosa preoccupazione di sé, perché una volta avevo anch'io questa inclinazione. Ma mi sono accorto che rende distratti, inetti al lavoro, senza spina dorsale. E questa spina dorsale, cioè l'equilibrio, è quello che più conta per me. Ci saranno sempre uomini che hanno il diritto di occuparsi di se stessi, cioè i poeti. Ma noi, cara, siamo semplici commercianti. Le nostre osservazioni personali contano ben poco. A fatica riusciamo a dire che gli strumenti che si accordano nell'orchestra ci procurano un insolito godimento e che qualche volta non osiamo voler inghiottire. Sarebbe meglio, per Dio, metterci a lavorare e rendere come hanno reso i nostri predecessori». Il principale della ditta Johann Buddenbrock aveva squadrato suo fratello appena arrivato con una lunga occhiata e durante i primi giorni l'aveva osservato di sfuggita e senza darne l'occhio, finché, senza che gli apparisse in volto un giudizio, la sua curiosità parve soddisfatta e la sua opinione formulata. In famiglia parlava con lui in tono indifferente, di cose indifferenti, e si divertiva come gli altri quando Christian faceva la commedia. Passata una settimana, gli parlò così. «Dunque, caro ragazzo, si lavora insieme, vero? So che vuoi assecondare il desiderio della mamma, va bene? Direi che esteriormente, essendo mio fratello, dovresti prendere il posto di procuratore, perlomeno di fronte agli altri. In quanto alla tua occupazione, non so ancora fin dove sei arrivato con le tue nozioni di commercio. Mi figuro che finora avrai fatto un po' i tuoi comodi, vero? In ogni caso dovresti essere tagliato specialmente per la corrispondenza inglese. Ma qui devo esprimerti una preghiera. Come fratello del principale avrai ben inteso, fra gli altri impiegati, una posizione privilegiata. Ma credo inutile dirti che devi importi a loro soprattutto mettendoti alla pari e facendo il tuo dovere, anziché facendo uso dei tuoi privilegi e prendendoti inutili libertà. Osservare dunque l'orario d'ufficio e salvare sempre le apparenze. Siamo d'accordo? Il giorno seguente Thomas lo introdusse negli uffici e così ebbe inizio l'attività di Christian al servizio dell'antica ditta. Dopo la morte del console, gli affari avevano proceduto ininterrottamente e con buon successo. Thomas Buddenbrock, tutto animato dal desiderio di conservare e aumentare il lustro della ditta, in conformità al nome che si era fatta, amava impegnare la propria persona nella lotta quotidiana per il successo, poiché sapeva benissimo che doveva non pochi buoni affari alla sua presenza sicura ed elegante, alla sua gentilezza convincente, alla sua abilità e al suo tatto. In quanto a Christian, pareva che si dedicasse alla sua attività con zelo e con piacere, anzi sembrava si sentisse molto bene e fosse arcicontento, e per alcuni giorni ebbe un modo di mangiare con appetito, di fumare la pipetta e di assestarsi le spalle nella giacchetta inglese che rivelava il suo pieno accordo con Thomas, e sedeva accanto al signor Marcus e al fratello sul seggiolone girevole, perché, come i due capi, anche lui aveva una sedia a braccioli. Incominciava col leggere il giornale e fumava beatamente la prima sigaretta. Poi cavava dal suo armadietto una bottiglia di vecchio cognac, ne prendeva un bicchierino, allungava le braccia per sgranchirsi, diceva «A noi!» e pulendosi i denti con la lingua si metteva al lavoro di buon animo. «Quella del commerciante è veramente una bella professione», diceva. «Una professione seria, laboriosa, piacevole, soddisfacente. Mi ci sento proprio nato». Christian incominciò purtroppo a diminuire notevolmente il suo zelo dopo la prima settimana e più ancora dopo la seconda. Ciò appariva anzitutto dal fatto che i preparativi al lavoro, i quali da principio erano sembrati un modo di pregustarlo con artificio e raffinatezza, la lettura del giornale, la sigaretta e il cognac, richiedevano sempre più tempo e occuparono infine tutta la mattinata. Poi Christian incominciò, come fosse una cosa naturale, a trascurare l'obbligo dell'orario d'ufficio, a comparire la mattina sempre più tardi con la sua sigaretta prima di accingersi al lavoro. A mezzogiorno andava a far colazione al circolo e ritornava troppo tardi, qualche volta soltanto la sera, qualche volta non ritornava addirittura. Quel circolo, del quale facevano parte prevalentemente commercianti scapoli, disponeva al primo piano, sopra un ristorante, un paio di locali confortevoli dove si prendevano i pasti e si tenevano riunioni facoltative e spesso non del tutto innocenti. C'era infatti una roulette. Ne erano soci anche alcuni padri di famiglia un po' sventati. Christian, che già a suo tempo era stato più o meno amico o conoscente dell'uno e dell'altro, fu accolto a braccia aperte, poiché, anche se i commercianti e gli intellettuali non avevano una grande opinione della sua intelligenza, conoscevano molto bene le sue doti di compagno divertente in società.